Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Mancano pochi giorni all'apertura dell'Expo e tra le tante curiosità e novità che ospiterà ci sarà il Future Food District, una sorta di micro universo in cui il visitatore sarà chiamato a sperimentare nuovi modi di interagire col cibo e con la catena di distribuzione degli alimenti. In particolare ci sarà un prototipo di supermercato del futuro con molte novità rispetto a quelli, insomma, a cui siamo abituati. A coordinare il Future Food District c'è Carlo Ratti, direttore del Sensible City Lab del Massachusetts Institute of Technology e titolare dello studio di design che porta il suo nome, nonché nostro ospite frequente. Buonasera Carlo Ratti. Buonasera. Allora, un primo aspetto riguarda il livello di automazione del supermercato del futuro, che non sorprendentemente è destinato a crescere. Ma sì, effettivamente questo innanzitutto è un vero e proprio supermercato che nasce dall'idea di Coop, partner strategico di Expo, di far vivere sul sito proprio un'esperienza completa di acquisto. L'automazione effettivamente parte di alcune delle cose con cui abbiamo sperimentato. Ci saranno sia dei sistemi automatici che vanno dal magazzino sotto il supermercato e che fanno arrivare su magicamente i prodotti, ma poi sopra anche ad esempio alcuni elementi, ad esempio il ristoccaggio sarà in parte effettuato da robot. Oltre all'automazione però ci saranno molti altri aspetti legati proprio più alla persona e all'interazione con i prodotti. Ecco che nella nostra epoca, diciamo, di informatica è molto legata alla possibilità oggi di ricevere informazioni in tempo reale, se ho ben capito. Assolutamente sì, cioè quello che succede oggi è che noi sappiamo tutto di un prodotto, se andiamo online sappiamo da dove viene, il percorso che ha fatto, da quanti chilometri di distanza è stato trasportato, ecco tutte queste informazioni che sono disponibili in rete ma che di solito non abbiamo quando siamo al supermercato. Sì. E allora quello che abbiamo cercato di fare è cercare di sviluppare interfacce molto immediate, che non siano complesse tipo scansionare un codice QR, ma siano così semplici come allungare la mano, come quello che facciamo al banco del mercato, per avere queste informazioni su quel prodotto. Ecco, che quindi saranno visualizzate dove? Su uno schermo? Sì, noi semplicemente allungando le mani verso i prodotti tra l'altro saranno messi su grandi banchi. Ci piaceva l'idea di non avere un supermercato a scaffali che crea degli spazi discontinui, ma un supermercato che fosse un po' come un vecchio mercato, come un mercato tradizionale. E allora allungando la mano noi semplicemente sopra su degli specchi avremmo queste informazioni digitali che ci raccontano un po' la storia del prodotto. È quasi un po' come la vecchia storia del signor Palomar, per chi se lo ricorda, il signor Palomar di Italo Calvino, quando a Parigi entra in una fromagerie. Entrando in questa fromagerie gli sembra che ogni formaggio gli racconti una storia diversa, racconti di un pascolo diverso sotto un diverso cielo. Insomma, lui conclude dicendo gli sembra di essere al Louvre con tutte queste informazioni. Ecco, questa è stata un po' l'ispirazione del nostro progetto. Un altro aspetto decisamente sorprendente e anche spiazzante rispetto alla nostra esperienza è quello per cui in questo supermercato del futuro si potrà andare a comprare, come dicevi, ma anche a vendere. Ci spieghi? Esattamente, sì, perché proprio questa dimensione delle informazioni diventa molto importante. Quando sappiamo tutto del prodotto e quando a questo punto sappiamo anche tutto di chi lo vende, quindi abbiamo dei sistemi di rating, eccetera, possiamo immaginare il supermercato di domani quasi come uno spazio di libero scambio. È un po' lo stesso, l'equivalente di quello che succede online con Airbnb, che permette a tutti di essere sia clienti di un albergo sia albergatori, di prendere la loro casa e di condividerla in rete. È un po' anche quello che succede nel settore dell'energia, insomma. Proprio l'effetto dell'informazione questo, no? Esattamente, un effetto dell'informazione, l'effetto sociale dell'informazione. Sì. Quindi ci piace pensare al supermercato come una zona di libero scambio. Siamo molto contenti perché è proprio questo è entrato in risonanza molto bene con le idee di Expo, le idee di Coop, e quindi ci saranno proprio delle zone dove ci sarà ad esempio la casalinga del quartiere che potrà andare e vendere alcuni dei suoi prodotti. Tra l'altro anche questo un po' ci riporta al passato per certi versi, perché ricorda un po' i mercati rionali, i vecchi mercati dove veramente un po' tutti andavano a vendere quello che potevano. Sì, perché in effetti a noi non interessa, soprattutto in questo progetto, ma in generale, semplicemente usare la tecnologia. La tecnologia è interessante solo se ci permette di avere nuove interazioni. E queste nuove interazioni a volte tornano, diventano come quelle vecchie, sono cose molto belle che c'erano, che a un certo punto si sono perse per un motivo o per l'altro con l'industrializzazione e che magari oggi possiamo ricreare. Altro tema di cui spesso si parla, anche se si vede pochino in giro, è il tema dell'agricoltura urbana. Lì avremo un assaggio? Sì, certamente, perché questo si lega proprio a quello che dicevamo prima, cioè al fatto di come le persone possono diventare sia produttori sia consumatori. Certo. Quello che vedremo nella piazza, avremo nuovi sistemi di produzione urbana, da produzione delle alghe che diventano delle pergole per cui che raccolgono e permettono di far crescere le alghe, a sistemi di vertical farming, di stampa tridimensionale del cibo, cioè diversi sistemi che ci permettono di riportare la produzione in città. Grazie, grazie Carlo Ratti e ci vedremo all'Expo. Grazie, a presto. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.